Dio, non va un cazzo. All aboard the night train. Buonasera a tutti quanti, siamo ritornati in trasmissione, siamo i Mozilla Bros, in missione per conto di Dio, questa sera con degli ospiti veramente d'eccezione, uno soprattutto in particolare ritornato dall'oltretomba, possiamo così dire. Siamo la formazione senza Gicillo perché non è in regia purtroppo, ci sono io e ci sono i bluesmen a fare la regia con me. Vi salutiamo, dall'altra parte dello schermo ci sono Ono Sendai. Aspetta che non si sente niente, ora non sendai. C'è Garulf dalle retrovie che non saluta. Bello, Pecorelli. C'è questa voce fuori campo. Bello, che è proprio lui. E ci sono tante ragazze, ma soprattutto qui in regia ci sono... Siamo pieni di donne. Eh sì, fortunati voi, perché siete tre e tre, insomma. Noi siamo quattro, purtroppo... Ma quattro ce n'è uno lì che ne ha 4.000. Vabbè, si è riconosciuto già l'ospite misterioso da questo tocco di classe. Il 4.000 è qui che vi saluta. E non solo 4.000 oggi, sono davvero tanti. C'è Paolo Blues qui alla mia destra. Ciao gioventù. E Stefano Blues che nelle retrovie vieni a salutare, pure tu non farò scostumato. Smanetting time. Sì, perché abbiamo qualche problema con lo streaming. No, volevo aggiornare sullo streaming. Ho appena saputo che il compressore è rotto, lo streaming non funzionerà per lungo tempo. Il compressore. Quindi ci ascolterà il compressore. Cioè lo streaming va proprio... Ad aria. A pompe. Sì. Ce lo spariamo a bit, i propri bit a pressione. Sì, in questo modo. Insomma, dall'alto ci hanno detto che non funzionerà mai. Fino a quando non lo aggiustano. Se ci avete un compressore. Ce l'ho prestato. Ma a 10-100 tipo. Ma che cazzo? Cioè, compressore a gigabit al computer. Ma solo C-Roma. Infatti. Va bene. Cosa è strano, sono a Ciro, ma vabbè, ti presento a questo punto. È Natale, Natale Bluesman che è ritornato da noi. Ciao a tutti. Finalmente sono ritornato qua a Cosenza con questi pazzi. Li ho trovato peggiorati, sinceramente. Soprattutto te, Lorenzo. Grazie. E appunto ci sono io, Lorenzo Blues. Sempre per vabbè, voi. L'importante è che siamo tornati di nuovo tutti insieme qui in Mozilla Bros. A Cosenza. In streaming non ci siamo, ma siamo sugli FM 105.7. Esatto, 105.7 su C-Roma. Quindi ci potete ascoltare in diretta oppure potete scaricare il nostro podcast. Vabbè, allora io ho intenzione di fare la Simona della situazione. Ciao! Dare al salo di con... Ciao! E farò... Facete chiamare il 28250 0984 20... Salutiamo Simona, una sisters. Una Mozilla Sister che ormai ha fatto piedi su piedi di gallo. Come dire Andrea Blues, ha fagliato una poco. No, vabbè, lei ci segue sempre, è sempre con noi. Speriamo di sì. Insomma, siamo in trasmissione, siamo tantissimi. Allora io direi di partire proprio con il primo pezzo. Dai, scusa, oggi di cosa parliamo? Ah, vabbè, è vero, parliamo di, come al solito, tante cose nerd. Tu c'è un libro così nerd che ti abbiamo relegato in un'altra stanza. Si chiama L'arte dell'hacking, dal quale... tratterai numerose citazioni. Sì, io farò un confronto di frasi prese da un sito che non rileviamo, no? È il libro che poc'anzi citato da Lorenzo Blues. Non lo dobbiamo rivelare il sito, no? No. È indifferente. Siamo per la guarda, questi conflitti di interesse sono fastidiosi. Vabbè, no, ma figurati, anzi... cioè, diciamo che per esempio sul sito... Galo, secondo me tu me l'appoggi questa cosa che sto facendo? Oh no. Vabbè, senti, no, parleremo sempre di nerdate, ovviamente minchiate. Vorremmo parlare un po' anche i nostri ospiti. Tanto blu, no? sì, certo, queste ragazze parleranno, spero parleranno. Ah. La selezione musicale l'hai curata tu, personalmente. L'abbiamo curata io e Andrea, ci terrei a precisare. È il Petrona Blues Group. Il Petrona Blues Group ha detto soprattutto al downloading. Dovete sapere dalla che P2 ci scarica illegalmente. I soviet vi fanno scaricare. Hanno fatto la rivoluzione. Siamo così nerd che oltrepassiamo. Siamo su iTunes. Sì, vabbè, vi piacerebbe. Insomma, c'è questa scaletta musicale molto strana. Suele, Ana, suele, Ana, suele, Ana, suele. Murillo. Se la smettete con la droga, ci fate anche un piacere. Salutiamo Ciccillo, che purtroppo è in giro per il mondo a spargere il suo seme. Esatto, il suo seme. Con benestare di tutti quanti noi. Passiamo subito al primo pezzo che... Benestare. Vorrei che sappiate che è una dedica a un mio amico che me l'ha chiesto, insomma. Gesù. Sì, è tipo Gesù ma un po' meno forte. No, Luca Bruno è più forte di Gesù. Questi sono un gruppo molto strano che fanno un jazz molto particolare, il jazz degli zingari. Gypsy, come si chiamano, scusa? Si chiamano Men Men. E questo è Ten Libers Mustache. No, quelli là sono soviet. We'll be right back. Questi erano i Men Men, noi siamo i Mozilla Bros, ritornati in trasmissione. Siamo in trasmissione e vi dico qualcosa su questo gruppo, benché facciano un jazz, come dire, Paolo? Jazz manouche, come dice la francese. Alla francese, introdotto dal grandissimo Django Reinhardt, di cui abbiamo parlato l'altra volta, ma purtroppo non è questo il tema di cui vi dobbiamo parlare. Non parleremo di musica adesso perché ci sono i nerd che prepotentemente spingono con le loro novità. Quindi vi lascio la parola ai nerd, c'è il nostro Sendai che ci dovrà dire qualcosa. Solitamente c'è Natale che sta scalmanando. Natale, sei on air. Ok, ci siamo. Esatto. Guardate, la cosa più importante è che siamo su IRC. Se volete comunicare con noi, a parte i soliti contatti, sì, l'email, il telefono, i 3000 contatti, qua, no? Dovete venire su IRC, sul server freenode.net, sul canale Ciotoflow. Al momento ci siamo noi e il mio bot, però contiamo di avere più visite, no? Che poi i miei bot stanno diventando molesti, non so se hai notato, lo Sendai. Sì, a parte che c'hanno un non so che contro Luca Bruno, che sì, non vuole sì. programmare in perno. Non ma so. Mo devo fare la versione che parla solo con Garulf. Senza le vocali. E lo insulto. Io già ci parlo, basta che mi dice ciao, continua a dirgli ciao. Ma l'altra volta è uscito fuori dalla chat uno Sendai e sono stati veramente molesti. Sì. E infatti sono arrivate mail di minaccia a me e a Ciccillo con le tue, diciamo, esortazioni a parlare del tuo bot che minacciavano Sendai di morte. O sbaglio? Sì. Dunque, di cosa ci parlate, nerd? Che non no, siete ancora altri? Di niente. Non so. No, vabbè, senti. C'è Garulf che alza la mano. Sì, io volevo parlare di un sito che è una palata. Praticamente, visto quando noi vogliamo viaggiare, no? Noi di solito viaggiamo. Sì. Qual è il problema principale? Senza soldi. Che costa, esatto. Allora, quale sarebbe la soluzione? Bruciare. Ecco, quella è la soluzione 2. Però la soluzione. No, quella è la soluzione tua. È il passo successivo. Però potremmo semplicemente chiedere passaggi. Quindi carsharing.org. Carpooling. Ah, il carpooling, che palle. Carpooling. Ma ho visto per andare. C'era il carpooling per andare al Code Motion. E c'era un tizio di Locri che voleva 60 euro di benzina. Cioè. Beh, se tu lo usi carpooling per andare con la gente di Locri, non è colpa mia. Però, per esempio, per andare in Germania. Ma tipo, se arriva uno di Santa Eufemia da Spromonte che deve andare, che ti dà anche la macchina per andare in Colombia gratis, forse dovresti farti qualche domanda. E la benzina te la paga pure lui. Insomma, comunque, però, noto con piacere che non Sendai è una basetta notevole. Quindi, cos'è carpooling? Mentre la tua barba è simile ai tuoi capelli. È un tutt'uno. Quindi cos'è il carpooling? Il carpooling è tipo ti do un passaggio. C'è solo un 30% di tassi di omicidi. Quindi voglio dire, comunque è sicuro. Sì, abbastanza sicuro. Ma un sistema di feedback sul carpooling secondo te può funzionare? Ma secondo me già funziona. Tipo se c'ha una stellina rossa, tipo mi ha toccato il culo, magari non ci vanno tutti, no? Magari giusto così, ma credo che ci sia, no? Non lo so, guarda, l'ho visto, quel sito era penoso. No, guarda, adesso c'è anche un bellissimo motore di ricerca che vi permette di cercare dei passaggi, cosa, sai, in tutta Europa. C'è un sito che si chiama airbnb.com. Natale, devi dire troppe cose questa sera, ti devi dare una calmata perché sei visibilmente agitato. L'imprecazione dalla, sembra Zeus, ha scoccato il dardo. Dai, che cosa che si niente, senti, oggi è entrato anche uno Sendai in chat. Vabbè, per tutti coloro che ci ascoltano per sbaglio, magari sull'autostrada, sappiate che il cantante arriverà a fine serata. Nel frattempo noi parliamo, volevamo parlare oggi un po' di hacking. Ne parliamo un po' di hacking perché c'è molta confusione su questo termine. Magari la persona di hacking dice: mamma mia, un pericoloso criminale con i dread, tutto strano, vestito di nero con i dread, oppure non lo so, con una telecamera su una felpa. Cioè, persone strane. Prendiamo il caso tipico di persona normale. Tu, Egle, che cosa ne pensi degli hacker? No, io mi intendo solo di hacking bancario. Vediamo Egle soprattutto. Ciao Egle. Hacking bancario? Ciao. Sì. Cioè? È molto molto interessante. Dici. No, no, nel senso diventare hacker per infiltrarsi nei sistemi bancari e fricare soldi alle banche. È uno studio da fare però approfonditamente. Non... Questa è la prima incongruenza. Capisci? Subito dici hacker per fare danni, rubare alle banche. Tu è una protesta contro il capitalismo o non lo so, è una protesta non violenta? Contro il capitalismo, sì. Già diventa più interessante, più profondo. Tu invece che cosa ne pensi degli hacker? No, io non penso. Abbiamo preso una persona che non pensa. Tu? Dei pericolosi criminali. Carolo, senti, questa è l'opinione pubblica rispetto all'hacker in generale. Siamo, io non penso. Io non, non vedo, non parlo, non sento. Perché diciamo che 30 anni di cattiva stampa hanno portato a sta cosa. È vero, è vero. Perché fa più rumor scrivere hacker anziché cracker, no? Infatti sì, cattiva stampa. Vabbè, insomma, oggi parleremo di questo, della differenza fra gli hacker buoni e gli hacker cattivi, per usare un termine, insomma, popolare. Visto che parliamo di cattiva stampa, ora una news di oggi. Andate su Repubblica a leggervi quel grandissimo articolo di merda di Riccardo Luna, il tipo di Wired d'Italia. Oh mio Dio. Qua ha scritto un articolo, ma proprio che... Terribile. Tipo che sembra che... E poi Paul McCartney è vivo, non ho capito perché ha dovuto scrivere che è morto. Quello ancora non lo so. Ma praticamente la sintesi dell'articolo è che se usi Tor quasi quasi sei un pedofilo che spaccia droga e vende armi. Ma che gente di merda. Vabbè, ma visto, questo punto visto che stiamo sparando a zero su tutti, perché non passiamo un altro pezzaccio? Sì, se no la discussione diventa pesante. Hai ragione. Che cosa ci fai sentire? Beh, sicuramente adesso interviene il blues, caro Natale. Ci sei mancato. Sei mancato a tutti. Anche voi. E penso siete che mancati. A te sia mancato il blues. Non dico noi. Ma il blues ti è mancato. Ma soprattutto il blues di Lorenzo Blues. Però usa. Lorenzo Blues è un blues allucinante. Però con i Petrona Boys ci siamo allargati anche sulle note del jazz. Che non è che Petrona poi Good Old Boys. Sì, ma perché non è che poi ci siamo allargati. Come dicevamo ai vecchi tempi, passiamo vitamina B, vitamina J, vitamina F, no Natale? Ma passate anche le patatine al formaggio. No, aspetta che volevo assaggiare io una. Ecco il lordo. Allora, poche vitamine e tante patatine. Sì, ma insomma che bello, mi sì. Quindi presentiamo un grande chitarrista che addirittura è stato proclamato come miglior chitarrista del mondo, almeno come chitarrista jazz, nel 2002, vero Paolo? Nel 91, non nel 2002. A distanza di ben 11 anni. E questa è la canzone che si chiama... Presentiamo quindi Scott Henderson con Smelly Old Dog Blues. Ma è sempre... Thank you. try to bathe him, baby. Just the other day. But when I put him in the tub, y'all, that water got up and ran away. Gonna smell the old dog, baby. You know he's a smelly old hound. And if I can't make him go away, no, they're gonna run me right out of town. Yes, they will. Now I shot him 20 times, baby, and each time down he fell. Couldn't take it, baby, 'cause I couldn't stand the smell. Oh, got a smelly old dog, baby. Lord, he's a smelly old hound. See, and if I can't make him go away, gonna run me right out of town. Wonderful. E tornati. Questo era Scott Henderson. Era esattamente Scott Henderson. Ma sai che non lo conosco questo, bene questo Scott Henderson. Questo è un male per te. Shame on you. Mi illuminate un po' su Scott Henderson. Adesso sentirei parlare molto di Scott Henderson, perché ci hanno suggerito, ci hanno fatto conoscere i nostri Petronella Old Boys. Minchia. Perché we loro sa se, esatto, we dead. Ma voi lo sentite il blues, voglio? L'avete sentito? Io direi è usato. Scusate, le donne l'hanno sentito il blues? No, aspetta, non si è sentito, ripeto. Noi non abbiamo sentito te, però. Tu l'hai sentito il grandissimo. With that. With that. Sì. Abbiamo degli automi che sono stati istruiti da Pecuriello prima a rispondere in questo modo. Automi, tu non sai che noi abbiamo visto Natale, abbiamo visto Luca Bruno la sera. Volare? No, la sera però, è comparso la sera. Ah, tipo, sì, sì, l'ho saputo. Abbiamo bevuto una birra. Scusate, insieme. A questo proposito volevo salutare Lord Zen, che sì, chiaramente un saluto. Un super nerd a Milano, non ci sta sentendo sicuramente, però. Ma perché non va il podcast e non va lo streaming? Luca Bruno mi ha scritto della trasmissione, però sarà felice di ascoltarsi. Sì, dopo. Citato in podcast. Vabbè. È citato. Beh, parliamo un po' di Scott Henderson. Uno dei due Petronella Boys potrà introdurre benissimo. Oppure Andrea Blues, se lascia stare questi taralli, non li fa scomparire. Abbassa un po' lo sfondo di Aretha Franklin, che è troppo. Capito come? Ma portate i taralli, perché c'è tutto di là? No, vabbè, passa i taralli, magari a donna. Perché adesso dovrà mangiare e non parlare. Beh, che cosa ci dite di Scott Henderson? Passi i taralli. Già quello che abbiamo sentito basta per definirlo. Anche se comunque lui è considerato un grande chitarrista jazz fusion, ma come abbiamo sentito anche blues. Lui infatti ha cominciato la sua carriera scrivendo, cioè con un gruppo di Tribal Teach che facevano jazz e fusion. E poi è Key Blues che abbiamo sentito. E poi ha affiancato questo progetto blues, tra cui il pezzo che abbiamo sentito tratto dall'album Dog Party, che è il primo album che ha inciso con una blues band. E niente, lui è comunque cresciuto a pane e rock, diciamo, perché si è forgiato con i Led Zeppelin, Jimi Hendrix, e quindi si è avvicinato al blues fino ad Albert King e ad altri grandi, fino ad arrivare a un suo stile. Comunque è chiaro, questo pezzo si chiamava, Come avete capito, si chiamava Smelly Old Dog Blues, che significa il blues del vecchio cane puzzolente. Ma cioè, l'ho visto un po' magrolino questo in foto, no? Vabbè, sì. Si faceva proprio. Il solito blues, ma sono grossi. Oltre magrolino, è abbastanza un cesso. ma sì, vabbè, comunque lui era un jazz, non era un blues. Mi ricorda Angle, mi ricorda il tastierista di Michael Barks, quel pazzo di Wave Sopla. Iggy Pop. No, Iggy Pop. So è massiccio. Però se la sentiva quello là. Sì. Ha rotto tutto poi. Però se la sentiva. Iggy Pop è massiccio nell'anima, perché più magro, non lo so, ne fogli di carta, voglio dire. Tutto è sicco. Comunque, che stavamo parlando di Scott Henderson. Ma Scott Henderson, ripeto, Smelly Old Dog Blues, è un testo profondissimo, parla di un cane puzzolente, quindi pieno di retorica e poesia. Niente, questo cane alla fine viene ucciso, ma no, come narrano... c'è stato il finale. Violenza sui cani. Sì, violenza sugli animali. Come narra anche il testo, non viene neanche accettato dagli angeli in paradiso. Perché puzza, poverino. Non... discriminato. Ci ricorda qualcuno, ma non diciamo chi. Ma parliamo un po' dello stile di Scott Henderson, perché questo Tarlo, chitarrista... Tarlo puzza molto. Ti salutiamo. Ciao, Tarlo. Ciao, Tarlo. Ti vogliamo sempre bene. Cosa possiamo dire di Scott Henderson? Oltre che cambia taglio di capelli quotidianamente. Sì, aveva i capelli lunghissimi, forse negli anni 80, adesso ce l'ha forse corti. Magari li sta facendo ricrescere, non lo sappiamo. Comunque, il suo stile jazz si è affermato fin dall'inizio. Poi è passato al blues e intanto ha continuato a mantenere lo stile fusion, con il quale è riuscito a portare avanti un progetto che sono i Vital Tech Tones, un trio jazz fusion formato da lui, Victor Wooten e Steve Smith alla batteria. L'uomo, diciamo, l'uomo con il groove più grande del mondo. Victor Wooten. Victor Wooten, ecco. Che groove disambigua. Insomma, non è il pene, ma è uno stile musicale. Questo Victor Wooten è un bassista, c'ha delle mani, c'ha delle dita che sono tipo quanto la testa di Natale. He feels, comunque c'ha uno slap allucinante. Comunque questo ruolo una volta lo faceva Simone, ricordo che era divertente, no? Perché quale parlava ruolo? Leggeva, no? La storia del che bello, loro non stanno leggendo, hanno imparato. Ma loro sono persone serie. Io non sono sto colte. Dicendo niente, quindi. Simone arrivava, oh, ha parcheggiato qua, lontanissimo, capì? Era... E soprattutto, insomma, ciao! Ci manca. Com'era? Ciao! E niente. E vorrei ricordare soprattutto l'armonica che abbiamo ascoltato dal grandissimo Pazzo Brian. Per il quale il nostro Andrea stava letteralmente svenendo, cioè si è dovuto sedere. Ma quella nota svenendo S maiuscola con una S in meno, vorrei dire, stava svenendo senza S. Ma dunque, niente, abbiamo parlato un poco di Scott Henderson, io direi di passare un altro pezzaccio, Natale, che dici? Sì, allora questo pezzo, sì proprio quello tuo, è quello lì. Questo pezzo praticamente è di Al Marino, si chiama Love is Blue. Questo cantante è apparso nel film Il Padrino, che sicuramente conoscerete tutti. Qua c'è scritto Al Martino. Al Martino, scusami. Sei un ignorante. No, Marino è l'amico nostro che salutiamo. Ciccio Marino. Fra Petronaco. Anche lui di Petronaco. Lo salutiamo. Questo cantante. Venuto in radio, Ciccio Marino, come tu ben sai. Eh sì, viene venuto a imprecare contro Angle. C'è un rapporto di odio, amore, odio e tamo. Vabbè, questo cantante è apparso nel Padrino. Lui fa la parte del cantante che ha bisogno di un... Ha bisogno di un posto in un film. Il padrino lo aiuta. Non so se ricordate quella scena del cavallo, la testa del cavallo mozzato. Esatto. Per aiutare lui. La prima scena del padrino, diciamo. E questa canzone me l'ha fatta conoscere Matteo, che gliel'ha fatto conoscere il padre. Quindi salutiamo Matteo. Grande. È non è blues, ma il testo è molto blues. Di che parla? E mo lo sentirai. Love is Blue, Al Martino. Questo è Stevie Ray Vaughan. Pardon. Blue, blue, my world is blue. Blue is my world, now I'm without you. Gray, gray, my life is gray. Cold is my heart since you went away. Red, red, my eyes are red. Crying for you alone in my bed. Green, green, my jealous heart. I doubted you and now we're apart. For you, so lost and alone. Gone, gone, the love we knew. Blue is my world, now I'm without you. When we met, how the bright sun shone. Black, black the nights I've known, longing for you, so lost and alone. Blue, blue, my world is blue. Blue is my world, now I'm without. Thank you. Mozilla Bros in onda su Radio Ciroma 105.7. Mi scuso prima per l'errore registico, ma non sono abituato fai a fare... schifo, fai grazie, schifo. Grazie. Appunto per questo salutiamo Ciccillo, che è il nostro regista di fiducia, ma adesso è in giro per il mondo a spargere il seme. Il seme. E a proposito di seme, colgo proprio la palla al balzo. Quale palla a proposito di seme? Entrambe, perché praticamente cosa succede? Che cioè il mondo sta andando alla rovescia, cercano di bloccare... Prima in Egitto, come abbiamo visto la scorsa puntata, adesso anche in Inghilterra, cercano di bloccare il motore stesso della rete. Internet? Sì, Garulf, però se parli là non ti sentiranno mai. Micro. Allora io le dico, è la tecnologia? Beh, praticamente esatto. Non stiamo parlando di Google, ma stiamo parlando del porno. Perché infatti... è uscito... Ma ne abbiamo parlato l'altra volta il porno. Sì, ma l'altra volta era in Egitto, tu dici Africa, invece proprio per fare il parallelo, per spiegare che la censura non ha confini, anche in nella centralissima poi babbo, Inghilterra, è uscito sto disegno di legge che a quanto pare, se mai passerà, obbliga tutti i provider a bloccare gli accessi ai siti pornografici. Cristo, capì? Sacrilegio. Tutti. Cioè, praticamente l'80% di internet verrebbe tagliato fuori. Andrea come fa? Scusa, si è messo le mani. E tu come fai soprattutto? Ma io non vado sui porn. Volevo dire che YouPorn è scritto in Perl, per chi fosse interessato. Yuhu. Perl è un linguaggio di programmazione figo. YouPorn, il sito più famoso di porno mondiale, è scritto in Perl. E sono soddisfazioni queste. Sì. Quali, YouPorn o Perl? In barba a chi dice che Perl è morto, Perl vive. Comunque Perl è attivo. In YouPorn è attivo. O in base alla Perl è eretto. O in base alla categoria, poi dipende. Perl penetra. Penetra. Comunque, a parte questi slogan, ne vuoi dire un altro? Perl da, Perl toglie. Perl... Per la miseria. Vabbè, smetti, aspetta, ti tolgo il microfono. Ti sto togliendo il microfono. No, sono delle perle. Visto che sono delle perle. Delle perle, bravo. Bella, questo è bellissimo. Comunque, praticamente questa legge appunto obbligherebbe i provider a bloccare l'accesso, sia anche i provider mobili, quindi anche dal vostro telefonino, se siete in Inghilterra non dovreste più poter vedere i siti porno. Ovviamente, visto che in Occidente siamo più democratici, uno può mandare proprio una lettera scritta al provider e dirgli: senti provider, io voglio andare sui siti porno. No, regia, una lettera fisica. Io vorrei dire che sì. qui in regia siamo su YouPorn. Cioè Paolo Blues, che è sempre il più loffio, che sta zitto. Perl naviga. Poi qua forse mi suggeriscono che appari su una lista pubblica, questo non si sa, però tu puoi chiedere: provider, per favore fammi vedere i porni, e loro ti dovrebbero fare. Però poi obbliga anche questa legge i vari siti porno a mettere su dell'implementare dei meccanismi automatici, non si capisce come, per la verifica dell'età anagrafica degli utenti. Anagrafica. Senti, ma il fax pure, cioè perla. Questo ancora non perlizza. I dettagli non ci sono. Però una capisci come è un attacco alla libertà questa, ma anche alla democrazia. Poi, ma anche alle seghe, voglio dire. Vabbè, ma al di là di questo, cioè ognuno dovrebbe essere libero di andare dove vuole. E poi non si sa mai in queste liste di prescrizione porno cosa ci può capitare. Cosa c'è? Chi c'è? E quindi era questa. Allora, massima solidarietà al popolo inglese che non può. E infatti sui siti porno. Prima del pezzo passeremo un messaggio di solidarietà. Cioè, si possono avere solo il sito della Thatcher. Capì? Porno. Che schifo. Senza perl. Vabbè, questa è una news tragica. Tragicissima. Non però lo so. Capisci come. Però con Thor riescono? Eh sì, poi ovviamente sì, queste cacate di censure saranno aggirabili con proxy o altro. Anzi, forse da un lato, se ci pensi bene, è una cosa buona. Perché poi esploderebbe l'utilizzo di questi Thor. Sistemi di Thor. Ma ci sono persone come Simona che usano Thor per scaricare. No, male. Guarda, vergogna. Cioè, Simona, ma che vergogna. Che resta qua? Cioè, Tor per scaricare, ma stiamo scherzando. Per cambiare l'IP. Anzi, perché Tor, quindi... appunto, sappiamo che questa rete è distribuita, che per lo più viene usata anche per aggirare le forme di censura. Infatti, il secondo paese che utilizza più nel mondo Tor è l'Iran. Ma Tor è lento come la morte, come fai a scaricare? No, non è lento come la morte. Oh, di più. No, dipende. L'altra volta mi è passata davanti. Ho detto, sapete cos'è veloce? Perl. Vabbè. Tu hai i tuoi deliri perlati. Cioè, la sudore è imperlata. Comunque, a proposito di Tor, vi ricordiamo, se avete Twitter, avete modo di contattare Riccardo Luna, offendetelo tantissimo per quell'articolo che ha fatto su Repubblica. Però, Twitter non è scritto, Twitter non è scritto in perle, è scritto in Rabbi. Infatti è lentissimo, e c'è una balena che dice: no, non funziona, sei inchiumato. Come è scritto per Twitter? Rubi. Comunque c'era st'articolo dal titolo, penso un po' tonata, Sesso, droga e armi, la faccia cattiva del web, dove parlavano di Tor come dando l'idea, cioè tu pensa Repubblica comunque un giornale generalista, magari lo legge, che ne so, una persona, qualcuno qualunque. Direbbe comunista. No. Vabbè, diciamo che è uno dei quotidiani più venduti in Italia, se non il più venduto. Però no? Capì, uno magari il primo impatto che ha con Tor lo incontra leggendo l'articolo di questo Mino. Ma scusami, questa è nell'edizione cartacea o solo sul web? Non lo so, io l'ho letto sul web, però webaceo. Webaceo. Perché i tirchi magari se lo sono letti, ma gli altri no. Però, insomma, informatevi, perché Tor non è solamente uno... Gli dance service non sono soltanto per siti illegali o di pedo, pornografia, droga, armi e rock and roll, ma anzi. Tu dicevi oggi che navigavi per gli hidden di Tor, no? Che cosa avevi trovato? Sì, alla fine si trova un po' di tutto, ovviamente ci stanno anche queste cose, però fare un articolo che cioè con toni molto sensazionalistici che... mette l'accento solo su questo aspetto è abbastanza fuorviante. È chiaro. Ma scusa, in generale la rete converge sempre, no? Del tipo, se c'è uno malamente, viene a parte. Cioè, se c'è un pedofilo, no? Scusa, spiegati, no? Uno malamente. Nel senso che, la comunità, no? Se vede un pedofilo, non gli dice benvenuto. Ma infatti all'interno della rete Tor, diciamo, ci sono vari gruppi che appunto si prodigano per in qualche modo bucare o buttare giù i siti dei pedopornografici. Quindi gli hacker sono buoni. Esatto. No, ritornando al discorso di prima. E poi faremo magari la distinzione tra hacker buoni e hacker cattivi, no? Si chiamano black hat e white hat, o sbagli? O sono cazzate quelle che dicono in giro? Red hat, pearl. Voilà. E vabbè, io direi di passare al prossimo pezzaccio. Sì, sì, che pezzo è? Che pezzaccio mettiamo, ragazzi? Però con più allegria, dai. Che pezzo sì, è? Sì, che pezzo. Vabbè, stiamo ma me lo metti dopo Aretha Franklin di sfondo, che cominciamo a ballare. Certo, qui, certo. Come facevamo una volta. Sì, però, capi, meglio sì, tu credi, io adesso c'ho il potere. O no? Vuoi diffondere un messaggio di pace prima? Togliete il potere a Lorenzo Blues. Esatto, a parte questo. Però prima ovviamente del pezzo sappiate che manderemo il messaggio. Sì, anche perché il pezzo comunque parla di amore. Il pezzo che vi ha spoilerato prima è di Stevie Ray Vaughan. E si chiama, come dice il nostro buon Stefano. No, non lo dice. Come l'hai scelto tu il pezzo, non tu ricordi? I'm gonna give up on love. Esatto, quindi mandiamo il messaggio di questo pace. Questo è per tutti gli inglesi. Il potere della radio. I don't give up on love. Love won't give up on me. line. Oh, that's in the line. What about the price I will? Oh, shall it be paid? Che blues, ogni mamma, che blues, eh? Che dite voi? Ma vogliamo dire come ci stava questo pezzo dopo il gemito che abbiamo sentito prima, voglio? Un qualcosa di sublime, Paolo. Perfetto per te. Ma forse perché questo blues è profondamente orgasmico. Ma anche di più, vabbè, cioè questo pezzaccio era qualcosa di proprio allucinante. Poi noi comunque sappiamo di Stevie Ray Vaughan, quindi cioè sappiamo tutto su Stevie Ray Vaughan, non ce lo siamo di certo letto ora, adesso ve ne parleremo. Diciamo ragazzi, il blues è amplesso. Parolone. Tu smetti di associare. Abbiamo una brutta notizia. Il cantante ha detto che non può essere qui perché si è intrattenuto con i Gypsy King. E ha detto che non sarà qui. Soprattutto Gypsy King. Con chi era? Ma sto Grantab funziona. Sì, si funziona quando poi dopo un po' così si riavvia. Insomma, okay. Nasale, che cosa ne pensi di questo pezzaccio? Ma io penso che sia un super pezzaccio. Rispetto per Petronà che l'ha messo. Questa è I'm gonna give up all love. Sì, mi viene più cantata. Ma guarda, io non vorrei. È di In Step, se non sbaglio. Di chi? In Step l'album. Ah, vabbè, sì. Io sì, ce l'ho tutti. Sappio. Originale. Lo sa. No, sacrilegio. A proposito, a proposito del file sharing, la pirateria, eccetera, eccetera. Cioè, a un certo punto, no, che ti scarichi la canzone, poi, no, se ti piace, te lo compri originale. Perché devi avere il supporto fisico, cioè. Chiedi a Don Sendai. Ma infatti venire in mente una cosa. L'altro giorno, tipo, ho visto sto video della pubblicità della... cos'era? Vabbè, l'associazione musicale nella SIAE, una cosa... Faceva questo spot vergognoso contro la pirateria musicale, parlando, dicendo che era l'apocalisse della musica. Madonna. Falsissimo, perché infatti poi sono andato a informarmi e ci stanno dati proprio carta alla mano che gli introiti sono aumentati. Sono aumentati. Ma guarda, io pensavo che questo discorso non fosse applicabile per i film, perché dice vabbè, uno se lo scarica, cioè. Invece, vedendo Matteo, cioè, uno quando si vuole un po' assestare, lui c'ha la super televisione, si è fatto il super impianto, quindi che si scarica i film, il DVX, quelli con qualità bassa, non gliene frega niente, se li compra tutti originali. Cioè, alla fine, uno si scarica le cose per vederle così un attimo. Però, dopo, se gli piacciono, se le compra originali, è così, cioè. Non bisogna condannare il file sharing come morte della diffusione. No, non è proprio così, dai. No, è così, perché, guarda... È come un CD vinile, no? Io, per la musica, questo discorso l'abbiamo fatto e regge. Però per i film regge pure, perché se tu... Ormai ci sono, diciamo, i Blu-ray, ci sono, trovi anche filmati ad alta qualità. Sì, anche sui sistemi, a parte che il rip del Blu-ray sono 30 giga, non lo so, e non, no, è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Però, e poi ci sono i WebM, i nuovi file formati, sì. Ma non è, però, ti giuro che no, non è la stessa cosa. Lui c'ha un impianto di 55 pollici Dolby Surround, sì, cioè, sì. Non se lo vede bene, alla fine uno cerca la qualità. Però era giusto per collegarmi a una ricerca comunque aveva fatto anche la Svizzera, quando aveva deciso di non inasprire le pene per contro la pirateria informatica, che diceva appunto che l'industria si dovrebbe attrezzare per sfruttare nuove fonti di introiti come la merchandising o i concerti, insomma, ricavare i ricavi da là, quindi spostare i suoi ricavi. Cosa ne pensi tu di questa spostare cosa? I ricavi dai concerti, non no, solo nel senso l'industria musicale dovrebbe iniziare a fare profitti non dalle vendite al dettaglio del materiale, ma appunto da merchandising, concerti, eventi e cose no, del genere. No, io penso che può fare profitto dal CD che vende. Secondo me no. Però ci sono alcuni gruppi tipo i Nine Inch Nails che mettono la loro musica disponibile online, ognuno se la può scaricare in qualità altissima. Esatto. Poi i fan ovviamente accaniti, cioè se li comprano, perché o comunque al concerto ci vai, perché è normale, poi il concerto ci vai, ma guarda che uno apprezza queste cose, cioè me li scarico, però per siccome comunque noi stiamo parlando di stile Vogue, sono convinto che sia una buona cosa. Tu e Nine Inch Nails potete andare proprio a girare per Catanzaro, e ti dico anche che hai fagliato, perché non è in quell'album che hai detto tu, non è Step, no, è in Soul to Soul. Soul to Soul. Soul to Soul. No, Soul to Soul. Comunque io avevo ritrovato questo articolo proprio che diceva che per esempio a livello globale il valore dell'industria di intrattenimento era passato da 449 miliardi di dollari nel 98 a 745 nel 2010 e l'industria musicale che tanto si piange da 132 a 168 miliardi. E anzi una cosa toga era che ci stava un libro di Boldrin e Levine, che sono proprio due economisti che si sono studiati parecchio la cosa, e c'era sto grafico su sto sito dove praticamente mostrava che nel magazzino di Amazon c'è il doppio dei libri pubblicati nel 1850 rispetto a quelli pubblicati nel 1990. Questo perché? Perché a partire dal 1923 la maggior parte dei titoli era comunque protetta dal diritto d'autore. Ma il diritto d'autore scade? Ma mo lo stanno prorogando. Dopo qualche migliaio di anni scade? Mo ultimamente sì. Sento. Dalla regia ci conoscenza. Io l'ho sentito dopo 8 anni. No. Poi non lo so. E dopo 8 anni ti sciozzano di meno se non sono i Beatles. Chissà chi senti ti tu. Aumenta, o i Pink Floyd. Chissà chi ti senti tu. 150? Aspetta, abbiamo un'esperta, scusa, facciamo parlare, scusa, ci puoi dire le informazioni sul diritto d'autore? Grazie, esperta. Allora, mi sembra, per il diritto d'autore... Mi sembra, non lo puoi dire. Libri devi essere certo. Saranno un 100 anni e sulla musica 50, tipo, non so il genere. Quindi Elvis Beatles è gratis? Quindi i Beatles sono gratis. Te lo no, puoi scaricare, però. No, sono di Michael Jackson. Sì, vabbè. Non lo so, domanda la SIAE, che buono. La SIAE. Ma che esperta hai portato, Nata? No. Qua ci dicono, qua ci danno... scusa un attimo perché qua ci danno una notizia sconvolgente. I Beatles sono legalmente di Michael Jackson, che io sappia. Michael Jackson è morto. Comprati i diritti. Sì, ma Michael Jackson è morto, quindi? Sono dei genitori. Sono di Gesù. Dei figli dei parenti. No, i figli quelli di là Gesù. No, sono dei Gesù. Dei fratelli Gesù. Del padre di Michael Jackson. Gesù, Gesù. Comunque io Gesù. Prima avevo Gesù. Messo Aretha Franklin. Non so se la... Gesù. Ma noi stiamo parlando di cose serie. Però a un certo punto stavamo arrivando ai DRM. Perché? Sì, però scusa, noi volevamo dire pure qualcosina su Stevie Ray. Ho capito che ma siamo Stevie Ray regia. L'abbiamo. Vabbè, ma si sa, andate abbiamo su Wikipedia. Sannato parecchio, ma lo, continuiamo a sannarlo. Vabbè, per dai, favore. Visto no, che vai, lo vedi. Forse è l'unico bluesman. È l'unico no, bianco degno di nota. Ehi, hey, Eric Clapton? No. No, non è Johnny Winter. Sì, voglio, ma è un Elvis. Livello... Sì, è Elvis. No, eh no, cazzo, scusa. È l'unico bianco bluesman degno di nome. No, no, non è vero, perché c'è... ragazzi, c'è Eric Clapton che è God. Poi è Gary Moore, ma statevi sì. Zitto. Sta. Shh, ne abbiamo... Io potrei dire invece un'altra cosa che Stefano sicuramente mi darà ragione. È l'unico bianco degno di nota a fare Jimi Hendrix, vero? Cioè, l'unico bianco serio. Cioè, c'è proprio ispirato la vita sopra Jimi Hendrix. Cioè, era un Jimi Hendrix, meno Jimi Hendrix, un po' più Stevie Ray Vaughan, però bianco. Sì, sì, lui prende molto da Jimi Hendrix. Diciamo, è l'unico che riesce a fare Little Wing bene. Diciamo che se Jimi Hendrix era scritto in C, Stevie Ray Vaughan è scritto in Pearl. Minchia, portata. Portata. Perlata. Che, beh, una perlata. Una perla di saggezza anche questa. Cosa diciamo di Stevie Ray, Stefano? Stevie Ray, oltre a dire che purtroppo, anzi, per fortuna purtroppo, così come Jimi registrò pochi album in studio, solo 4. Per il resto sono tutte raccolte di album live, concerti vari. Io direi purtroppo, però dai. Sì, purtroppo, ma anche Jimi, diciamo... Io penso che l'album Texas Flood sia veramente fondamentale in tutte le discografie del mondo. Sì, spettacolare. Sì, vorrei dire... Era il primo album pubblicato nell'83. E vorrei anche dire che nonostante il premio di Scott Henderson che abbiamo citato precedentemente, cioè il miglior chitarrista al mondo, Stevie Ray si aggiudica, Stevie Ray si aggiudica il 12° posto fra i 100 chitarristi migliori del mondo e il 3° posto, se non sbaglio, se non erro, fra i 100 più selvaggi chitarristi blues. Veramente Guitar Heroes, dice qua, proprio eroi della chitarra. Ma sì, infatti potrebbe essere benissimo anche il secondo. Io non so chi c'è al secondo posto. Secondo te, il primo chiaramente è lui. E lui è l'inimitabile Jimi Hendrix. Non so se il 12° posto gli spetta di diritto. Cioè, ah, avete visto la classifica? Sì, fa storcere il naso in più punti. Diciamo, le prime due posizioni... potrebbero essere rispettate, che sono Jimi Hendrix e Clapton. Sempre per la teoria Clapton is God. Ma poi queste classifiche non l'abbiamo visto, sono sempre un po' contestabili, sembra un po' relative, un po' di parte, Non ti fidai Rolling Stone. L'abbiamo un po' caniati tutti quanti. Le vere classifiche solo qui su Mozilla Bros, gente seria, musica seria. E usa. E di Stevie Ray Vaughan volevo aggiungere una particolarità. Noi abbiamo passato diversi artisti, ovviamente blues, tipo Albert King, tipo B.B. King, e su questo ritorneremo tra pochissimo. Con un altro re della chitarra. And you know. E anche Clarence Gatemouth Brown, che sono perle, leggende del blues storico, classico, che sono emerse, anche che hanno brillato, erano già emerse prima, nel Montreux Jazz Festival. Ah, sì. E devi sapere, non so se lo sapevi, questo è un po' uno scandalo, Stevie Ray Vaughan partecipò a quel festival nell'82, mi sembra, 81-82, vogliate giovati per l'esattezza. Solo notizie affidabili dai Mozilla Bros. E fu sovrastato dai fischi, caro sì, Natale. Sì, ho letto. Però dopo quei fischi, un certo David Bowie lo chiamò e nacque Stevie Ray Vaughan. Andò a fare il chitarrista di David Bowie nei concerti. Ah, capì? Poi da lì. Se permettete, se ti viene a chiamare David Bowie, qualcosa ce l'ha. Rispetto. Però la marcia in più rispetto a Clapton, scusami, anche se tu lo ritieni il tuo mito, è la voce. Cioè, la voce di Stevie Ray Vaughan è nera. Forse su questo hai proprio ragione. Forse su questo però è Nesi, è proprio Nesi, sì, abbiamo hai sì. ragione. Però Clapton sa sentire, dai. Slow and is gone. Slow and is gone. Guarda, forse se avesse campato un po' più di quanto è campato, perché purtroppo è morto giovanissimo. Quanti 36 anni, non lo so quanti anni è morto. È morto proprio con lo staff di Clapton. Sì. Perché purtroppo questo poveretto si è andato a schiantare con un elicottero che, sul quale doveva salire Clapton stesso e il fratello. Però lui era stanco ed ha preso il posto di uno dei due. E quindi questo elicottero si è schiantato e è morto il pilota, perché era un poverino, un testa di cazzo, che è morto pure lui. Lo staff di Clapton è cosa? È Stevie Ray. Va bene, sì, abbiamo fatto una bella discussione su Stevie Ray Vaughan. Adesso possiamo passare a un altro pezzo, se sì, no sì. Mosciamo la situazione. Proprio no? Di un altro King. Sì, per completare, o meglio continuare, perché noi non completiamo mai, non finiamo mai. No, siamo un cerchio, non finiamo e non iniziamo mai, siamo eterni. Perché abbiamo parlato di B.B. King, abbiamo parlato di Albert King, e il terzo re della chitarra è lui, un grandissimo, caro Natale, ascoltalo, che ha influenzato, soprattutto lo ascolteremo dalla voce, dal suo timbro, dal suo sound, il nostro Ricuzzo di cui abbiamo parlato poc'anzi, il nostro Clapton. Lui è Freddie King con un pezzo a te caro, Natale, Big Legged Woman. Pezzaccio. I love the time. I love you better than hard love's love, 'cause you're a big leg woman with a sharp job in its skirt. Promise me, darling, never make me feel like this. Goes around the stump. You are mine. Call it sugar love, 'cause you're a big leg woman with a short job in its skirt. Promise me, darling, never make me feel like. Shot your minutes, girl. All right. Promise me, darling, never make me feel like this. I love a big leg woman. She Per salutare Natale. Siamo purtroppo giunti al termine della, al termine della trasmissione. Questa trasmissione del 2012 con il nostro Natale Bluesman che parte per l'America. Alla fortuna. Mi sento dire alla fatica. Più che altro per San Giovanni. San Giovanni. Sono stato a Valencia. Ma tu sei di San Giovanni in Fiore? Me l'hanno chiesto. Usa. L'hai preso per un complimento, vai. Certo. Vineria rock and roll. E cantine soprattutto. Beh, vi dobbiamo purtroppo salutare. Siamo alla fine. Scusa, siamo... prima di andare via. Sì, tanto dura 7 minuti questa canzone. Puoi dire tutte le cazzate che vuoi. Volevo leggere una cosa. Alcuni siti scrivono questa cosa. È vietato violare l'account di un altro utente. Gli hacker sono punibili dalla legge se violano la privacy di un utente nel web. Beh, sì, tu dovevi fare una citazione, no? The Art of Hacking di John Erickson. Ah, questo... ma poi consiglia pure l'altro che stai leggendo. Ah sì, un attimo. In effetti ci sono certamente persone che usano tecniche di hacking per violare la legge, ma questo non è hacking, anzi hacking significa seguire la legge, non violarla. Beh, quindi beh. Hacking diciamo... è una cosa diversa. Beh, c'è qualcuno che ha da dire qualcosa? Sì, ma a me non mi piace neanche quella come definizione, proprio sincero. Vabbè, l'hacking, l'hacker era uno smanettone. I primi hacker erano certi del MIT che hanno costruito un trenino, cioè. Sì, e gli hacker, vabbè, diciamo che tutta la loro vita sociale. Sì. in realtà gli hacker erano Italialegna. No, una cosa che i maestri d'ascia, perché hacker è un termine che indica proprio il maestro, quello che fa le barche. Ah. Davvero? Sì, in inglese se non sbaglio. Ma anche no. Sì. Allora, in termine però, informatico, chi smanetta su qualcosa, chi la spacca. Ma non solo in termini informatici. L'hack meeting c'è veramente di tutto. C'è gente che si fa i saponi biologici del 1820. Vabbè, adesso ha avuto, cioè, ha un bobine random, cioè. Ha un'altra evoluzione il nome. Ha avuto un'evoluzione, sì. Da diciamo maestro d'ascia. Però oltre che la maestra d'ascia, questo nome veniva usato al MIT proprio per alcuni scherzi, diciamo, simpatici ma soprattutto geniali. Tipo quello e di Capitan Crunch. È stato quindi assorbito da questo gruppo di primi hacker che è al MIT, da cui poi sappiamo i nomi. Massachusetts Institute of Technology. Sì, e per ricordare la storia degli hacker ricordiamo il libro di Stephen Levy, Hackers, che è da leggere. Sì, edizioni Shake, veramente ve lo consigliamo. Se siete i nostri ascoltatori ve lo dovete leggere. Ah, è una cosa che volevo consigliare, il libro L'etica hacker di Pekka Immonen, molto interessante. Fa, siccome alla fine siamo una radio soviet, fa un excursus storico sul capitalismo, sul ruolo dell'hacker in questa società capitalistica. Esatto. Tra l'altro ho incontrato al Codemotion, quel raduno di programmatori pseudo nerd. Tipo tu e Tarlo. Sì, eravamo in Italia. Tu hai vinto un libro. E ho vinto un libro. Hai bruciato. Ho incontrato un soviet che mi voleva invitare a un evento su Marx. Allora Marx. Io l'ho convinto che gli hacker sono un soggetto rivoluzionario e che ci inglobano, quindi sì, in questo adesso evento. Sì, io ho consigliato il libro L'etica hacker e il sito della Free Software Foundation. Quindi gli hacker sono la risposta ai problemi del tempo, secondo me. Non i soviet, sì. Nemmeno la P2. Nemmeno fuori onda radio. Fuori onda radio. Nulla. Nulla. Solo per. Forza Perle. Va bene, dopo questo discorso, questo escurso sugli hacker, vi invitiamo a approfondire il mondo degli hacker, a leggere, ma dalle fonti giuste, a usare Tor, a usare i porno e soprattutto a scaricare liberamente per il vostro diletto, per ampliare le vostre conoscenze, non usare iTunes e andare avanti nella vostra carriera. Tu hai l'iPod, come fai a dire non usare iTunes? Vabbè, io lo uso da Linux, se me ne frega. E come fai? Diccelo veloce, in due parole. Ho dovuto modificare un file di testo e poi ho usato GTK Pod. Grandissimo. Dai. Con GTK Pod vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione che speriamo avverrà tra una settimana, se siamo tutti vivi, se l'apocalisse non giunge prima del tempo. Salutiamo Cicillo che non era in regia e ci ha fatto fare qualche volo pindarico in più su Pindarico? Pindarico a voi. Sì, vabbè, insomma, sto dicendo le solite cazzate da Lorenzo Blues in fine trasmissione. Salutiamo tutti quanti i nostri ascoltatori, i nostri ospiti. Siamo in Mozilla Bros, siamo in missione per conto di Dio e torneremo la prossima settimana come sempre alle 7 più. Ringraziamo tutti i nostri ospiti, scusa, ringraziamo Egle sì. Che ci ha fatto un discorso serio sulle banche e sul copyright. Alessia che è stata molto eloquente e non pensa soprattutto. Ringraziamo soprattutto Flavia. Come scordarsi Flavia si assomiglia a Flavio? Non è vero. No, ringraziamo Stasi. No. Anche, sì, lo ringraziamo per essere soviet. Salutiamo tutti quanti quelli che ci ascoltano per salutiamo sbaglio. Salutiamo il cantante che non è potuto. Ah, il cantante che non è potuto venire. Sì. Povero doveroso. Tutti coloro che ci ascoltano, quindi, tutti i nerd. Secondo me Natale il cantante vi abbiamo preso persona in giro prima Lord solo Zen, per farvi che ci ascolterà dal podcast. Luca Bruno. Montesano. E Peppone. Soprattutto per poi un ciuccio di tutti, esatto. Babbo, salutiamo tutti i soviet di Radio Ciroma. E come si vuol dire qua, l'andazzo qui è Arugul. Ciao. E Blues On. Alright. Blues On ogni volta. Forza Mozilla Bros. Ciao Natale! Natale è venuto a Pasqua.